ganas de tirarte la hora. Pensa, mille visioni vengono usati per fare una sola pelliccia. Pensa che vengono scoiati vivi per fare la pelliccia. Pensa, per provare i collini vengono tenuti a tortura della goccia con gli occhi aperti costantemente per periodi superiori a 36 ore. Pensa, per vedere gli effetti del fumo vengono costrette scimmie a fumare in continuazione. Pensa, vengono usati per provare la resistenza agli urti sulle auto! Libertare, libertare, ora basta,